uscire, è solo stare fermo. Se non voglio impazzire, quello che conta è starci, e in ogni momento è starci adesso.